ci credevo, sembravi proprio tu in quello vestito, insomma. Eri così bella che neanche se c'era la nebbia ti avrei perso di vista. Sarà solo un sogno, però eri tu, solo tu mi potevi dare questo sorriso che non si è più cancellato. Cercavo ma tu